Italia in controluce. Buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchessi su Radio 24, quella che va in onda è la seconda puntata di Italia in controluce. Oggi è venerdì, ogni settimana a quest'ora do la linea a Piera Ceci per il suo consueto reportage sulla scuola, scuola in controluce. Scuola in controluce. Reclutare gli insegnanti alle superiori con concorsi locali e chiamata diretta dei presidi, almeno per gli incarichi annuali. Sembra fantascienza, ma in realtà è un progetto di legge della regione Lombardia che fa anche molto discutere, tanto che la stessa regione ha in parte frenato, parlato poi di sperimentazione e non prima di aver costituito un tavolo con tutte le parti interessate, governo, sindacati, come ha assicurato anche il ministro dell'istruzione Francesco Profumo mercoledì alla Camera. Per quanto riguarda l'iniziativa della Regione Lombardia, devo segnalare di aver avviato con tutte le regioni un confronto generale che ha sullo sfondo l'operatività del titolo quinto della Costituzione nel campo dell'istruzione. In tale percorso saranno affrontati temi di interesse comune e saranno ricercate soluzioni condivise, ivi inclusa la possibilità di avviare progetti sperimentali sul reclutamento, se del caso con forme innovative, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato a dettare la disciplina della materia. Dunque un percorso tutto da individuare, quello che potrebbe portare al reclutamento diretto degli insegnanti in Lombardia e che vede impegnata in prima linea il neo assessore all'istruzione Valentina Aprea. Diciamo che la grande novità sta nel fatto di sperimentare un modello che possa far incontrare per la prima volta la domanda e l'offerta, ovviamente per migliorare la qualità degli insegnamenti e degli apprendimenti. Quali sarebbero comunque i vantaggi, secondo lei, per la scuola lombarda? Ecco, allora, innanzitutto vogliamo non limitarci più a parlare di federalismo, ma tentare di attuarlo nel concreto, con l'obiettivo di portare a una reale efficienza e una migliore qualità la docenza e gli apprendimenti. E in questo senso c'è un punto molto interessante della legge che parla di condivisione del progetto scolastico, quindi le modalità di espletamento del bando prevedono in modo, questo già definito dalla legge, prevedono che ci sia conoscenza e competenza da parte dei docenti che parteciperanno a questi concorsi di istituto, conoscenza e competenza con riferimento alla conoscenza del piano dell'offerta formativa e competenza in merito al piano dell'offerta formativa, per qualificare anche solo con presenze annuali, quindi della durata di un anno, l'offerta formativa, per qualificare sempre di più. Vogliamo anche attivare una spinta per una gestione più virtuosa sulle materie oggetto di sperimentazione, ma soprattutto quello che noi vorremmo veramente raggiungere è dare la possibilità, da una parte con riferimento alle scuole, ma dall'altra anche con riferimento ai giovani insegnanti, di superare la gestione burocratica della risorsa umana delle scuole, che è il grande problema della scuola italiana. Materia molto delicata questa, infatti sì, certo. Quella del reclutamento degli insegnanti, infatti c'è già stata una levata di scudi, riuscirete in qualche modo a condividere, comunque a costruire un percorso condiviso anche con i sindacati? Dobbiamo innanzitutto far sì che le due strutture, quella regionale e quella ministeriale, si parlino, avendo chiari gli obiettivi, i limiti e la temporalità. Quindi si parte con una sperimentazione e questo è importante. Si parla di reclutamento soltanto per una tipologia di insegnanti, cioè quelli che andranno a ricoprire i posti vacanti per un anno. Obiettivo è quello di cominciare già con il prossimo anno scolastico, di avere già degli insegnanti sui banchi. Sì. L'obiettivo è quello di garantire anche sulle supplenze annuali l'insegnante più preparato a ricoprire quel posto in quella scuola, superando quindi l'assegnazione burocratica dei docenti alle scuole. È un piccolo passo, ma grande e significativo, verso modelli di reclutamento più flessibili e meno burocratici. Un piccolo passo lo definisce l'assessore Aprea, che potrebbe aumentare la qualità dell'offerta delle singole scuole. Ne è convinto anche Agostino Miele, rappresentante dell'Associazione Nazionale Presidi in Lombardia. Secondo me sì, per il semplice fatto che noi potremo avere una maggiore voce in capitolo nel momento in cui procediamo delle assunzioni. E che non vanno semplicemente su una graduatoria data per punteggio, ma va anche su una valutazione che ovviamente deve essere tutta costruita, che non lascia spazio al dirigente di scegliere così senza una motivazione che sia quanto più possibile oggettiva, ma sicuramente un maggiore apporto diretto del dirigente è fondamentale. Io credo che sia una buona idea, però bisogna capire adesso come viene attuata. Perché secondo lei potrebbe essere importante che lei come preside e i suoi colleghi possiate scegliere direttamente gli insegnanti? Allora, è importante innanzitutto per sapere chi mettiamo in cattedra. Scusa, nel momento in cui se noi andiamo solo per ordine di graduatorio, un punteggio che è stato acquisito solo con supplenza eccetera eccetera, bisogna anche capire la validità e se quel docente è in grado di poter fare lezioni in quel tipo di indirizzo di scuola. Perché adesso ovviamente non potendo scegliere il vostro personale vi beccate quello che vi beccate. Certamente, così, e questo è il discorso. Le faccio un esempio molto semplice: insegnare italiano in un liceo scientifico non è la stessa cosa che insegnare in un liceo classico, non è la stessa cosa che insegnare in un istituto tecnico. Ci sono delle competenze specifiche, forse in questo caso verranno più valorizzate le competenze specifiche in relazione al POF dell'istituto, che secondo me qua è fondamentale anche che tutto vada coniugato col POF dell'istituto. E non solo, forse potreste anche giudicare meglio gli insegnanti che magari hanno più voglia di lavorare, più voglia di impegnarsi rispetto ad altri, perché io credo che voi presidi, bene o male, sappiate, insomma, e conosciate le persone che vi arrivano. Ci vuole, ripeto, bisogna adesso cercare di assegnare, di dare dei criteri oggettivi per la selezione, che non siano semplicemente un nudo e crudo punteggio in graduatoria. C'è secondo lei il rischio di qualche degenerazione, cioè che il preside poi prenda il figlio del collega, il nipote? Allora, intanto i rischi ci possono essere sempre in qualunque tipologia di assunzione. È fondamentale, le ribadisco, avere dei parametri chiari, oggettivi, che valgono per tutti, dalle Alpi alle piramidi. Ed è proprio questo il problema, i parametri oggettivi, la chiarezza nelle regole. Marcello Pacifico, presidente dell'Associazione Nazionale Insegnanti, non ne vuole proprio sentir parlare di assunzione diretta dei prof. Troppi rischi, dice, che i presidi assumano il nipote, il figlio dell'amico, il cugino dello zio. Dubbi anche sulla costituzionalità del provvedimento. Innanzitutto in Italia la competenza esclusiva per l'assunzione nei ranghi dello Stato e appunto dello Stato, non è concorrenziale con le regioni. Poi figuriamoci se addirittura andiamo ad assumere in via sperimentale seguendo il modello delle scuole private. Perché? Perché purtroppo per esempio ad oggi ancora, sebbene la scuola sia autonoma e il dirigente scolastico sia responsabile del buon andamento e della performance della stessa scuola, lo stesso dirigente scolastico innanzitutto non è valutato e in secondo luogo non è debitamente sanzionato nel caso in cui la scuola che conduce, la scuola che dirige non raggiunge questi risultati. Per esempio un dirigente non può essere licenziato, quindi anzi addirittura a livello di direzioni regionali lo Stato assume i dirigenti per spoil system, cioè alla fine si sceglie il dirigente in base alla simpatia dell'idea politica con il diretto responsabile, in questo caso il ministro o il superiore a livello gerarchico. Allora se andiamo a riformare tutto il sistema di selezione, di reclutamento e di responsabilizzazione della dirigenza pubblica, allora anche nella scuola si può cominciare a pensare a una maggiore responsabilità delle scuole nella selezione del personale, ma tutto questo non c'è, quindi alla fine si creerebbero soltanto nepotismi, clientele, nuove clientele e sicuramente non ci sarebbe poi quella maggiore efficienza della scuola, proprio perché alla fine se io assumo un insegnante bravo o non assumo un insegnante bravo, alla fine non rispondo delle mie azioni e se non rispondo delle mie azioni, alla fine questa cosa non è prettamente utile. Per non parlare della nostra Costituzione, che dice appunto che per accedere ai ranghi pubblici bisogna superare un pubblico concorso. Avete sentito Italia in Controluce, seconda edizione, questa puntata come tutte le altre in podcast su radio24.it. controluce@radio24.it è la nostra mail. Torniamo lunedì alle 6.30 su Radio 24. Vi ricordo che dalla prossima settimana andranno in onda i reportage di Cristina Carpinelli sul voto amministrativo.